Ritroviamo il regista Emiliano Dante per parlare del suo nuovo documentario Appennino, che sarà alla rassegna DocuD al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara il prossimo 22 marzo. Emiliano, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Buonasera. Allora, ce ne parli? Documentario che faccio sul terremoto come tema, diciamo, la trilogia, il primo era Into the Blue, che l'ho fatto in Tendopoli, dopo il terremoto del 2009, il secondo è Habitat, che l'ho fatto nel 2014, che era su progetti case, l'ho fatto nel 16 e il 17, ed è, diciamo, si muove, si sposta, diciamo, dall'Aquila, dalla ripopolazione del centro dell'Aquila, che ancora non avviene, ai terremoti invece che hanno colpito Amatrice, Norcia, Quarto del Tronto. In particolare quella del Tronto, mi sono fermato su tutto lì. Sì. Mi sono presentato a Torino a novembre, adesso inizio lentamente, insomma, a fare questo piccolo tour di festival che man mano che viene selezionato. Guarda, fra qualche giorno c'è anche l'avvio internazionale, portiamo a Tetuan in Marocco e poi vediamo come andrà. Senti, c'era di partenza già l'idea di proseguire il percorso già avviato, con i tuoi due precedenti lavori sul terremoto, o questo nuovo terremoto in centro Italia, ti ha, diciamo, colpito e hai pensato di lavorarci sopra? Al film prima del terremoto di Amatrice, come il film sull'Aquila. Poi c'è stato il terremoto di Amatrice, ci sono gli altri terremoti, in qualche modo questo ha spostato l'andamento del film, e il film in qualche modo racconta anche il suo stesso formularsi ogni volta che c'è un nuovo terremoto. Comunque ci sono stati terremoti a scadenza abbastanza regolari tra il 24 agosto, che è quello di Amatrice, quello di fine ottobre, che è quello di Norcia, e quello di gennaio, che è quello l'area di Campo Tosto. E sono tutti posti molto vicini a me, che vivo all'Aquila, chiaramente. Sono situazioni che ho seguito in qualche modo il loro svolgersi, anche il loro riformarsi a seconda di come si è cambiata la situazione. Per dire, dopo il terremoto di Amatrice, ho iniziato a lavorare serratamente, diciamo, all'Aspetto del Tronto, che è un posto incredibilmente resiliente rispetto al terremoto che c'era stato. La gente aveva messo su un bar per i volontari, perché loro volevano aiutare i volontari che venivano ad aiutarli, per capire quanto era resiliente il posto. Lo stesso posto distrutto completamente dopo il terremoto di fine ottobre, quello di Norcia. Sì. In conseguenza è stato evacuato. Quindi il posto con la maggior dei più resistenti è stato completamente spopolato, perché tutti ne sono finiti adesso, mettono il tronto sulla costa, e allora sono andato a seguirli lì. Quindi tutto questo processo, è parte del film, come posso dire, un film che chiama una caratteristica piuttosto metafilmica, come quasi tutto quello che ho fatto. Capito. Poi, tra parentesi, tu mi dici che la mia idea iniziale era fare una trilogia, in realtà paradossalmente sì, senza avere la minima idea di quello che sarebbe successo fin dal 2009, nel senso, io lo proposi uno dei produttori di Into the Blue, mi proposi di fare una trilogia, avendo fatto già un film sulle tende, di fare un film sull'albergo in costa, dove sono andato a vivere, e poi di farne uno sul progetto casa dove sarei finito. E loro mi dissero che non era interessante, che non insomma, lì il discorso. Poi Habitat, che ho fatto sul progetto casa, l'ho fatto a prescindere dall'idea di una trilogia, e appena è uscito fuori, insomma, da queste strane situazioni. In realtà, evidentemente, se vivi in un posto dove il terremoto purtroppo è un argomento quotidiano, è molto facile fare una trilogia, purtroppo. Sì. Senti Emiliano, come lo hai strutturato? Ci sono una serie di interviste che hai realizzato? Sì, ci sono dei protagonisti, diciamo così, che sono le persone che incontro man mano e che continuo a seguire man mano. Uno è Aquilano e poi De Felice, che in realtà era già tra i protagonisti sia di Into the Blue che di Habitat. Gli altri sono Stefano Cappelli, Giancarlo Cappelli, che sono di Arquata. Giancarlo l'aveva messo su un giornale, si chiama La Schicchera, con cui raccontava le sue esperienze a terremoto e cercava di fare qualche buona informazione in un modo molto strano, ma comunque molto, molto vitale, se vogliamo metterla così. L'altro era Stefano Cappelli, che era un pilpaiente di Arquata. Poi c'era Elena Pascolini, che è una volontaria che, insomma, che si è innamorata di Stefano, e quindi hanno messo così, hanno è nata una storia d'amore dal loro incontro, così. Sì, e poi ci sta Enzo Rendina, che è un personaggio simbolo di quel terremoto lì, perché lui è di Pescara del Tronto, si è rifiutato di andare a Pescara del Tronto, per cui è rimasto da solo tra le macerie, fino al terremoto di Norcia. Il terremoto di Norcia si è dovuto, si è spostato, si è messo nel campo di Arquata, finché è stato arrestato e poi portato a Semetto del Tronto. E io racconto questa la sua storia in modo diverso dagli altri, perché racconto in gran parte, nel suo caso, tramite le cartoni animate, perché non lo riprendo. Riprendo solo a San Benedetto. Insomma, tutta questa storia in realtà confluisce in un discorso, che è il discorso, se vogliamo, di come facciamo a render conto, a costruire una narrazione coerente, quindi a trovare un ordine, a trovare un senso in una serie di esperienze che in realtà evidentemente in sé non hanno né senso né ordine, tendono semplicemente a essere cause. Senti Emiliano, in base a questi incontri, queste conversazioni, che idea ti sei fatto rispetto agli eventi e alle reazioni della gente? L'impressione che si ricava dal film è diversa da quello che ho ricavato girandolo, ovviamente, ma Certo. così, perché dal film in realtà l'impressione che si ricava è immagine del film stesso. Poi non ho cercato di far convergere il film in un'idea unica di cosa sia il terremoto, di cosa sia vivere in zona sismica, di cosa sia quello che ci attende in un certo senso. Il punto evidente, o meglio, l'idea unica esiste, esiste un, cioè, fatto comune, il fatto di dover convivere con questo tipo di esperienza. Ma il modo di vivere è talmente soggettivo. Tutte le persone che io in qualche modo sono andato a scegliere, anche con cui sono andato ad interagire con un modo più forte, e in realtà sono persone non comunissime, hanno dei modi di vivere la loro esperienza diversa dall'uomo medio che si vede al telegiornale, per capirci, dove in realtà invece viene in qualche modo scelto proprio quello più esemplificativo, si chiede semplicemente della notte, dello shock, di queste cose qui. Nel mio caso è stato un approccio diverso. Senti, che percorso dopo novembre, dopo il Torino Film Festival, stai facendo proiezioni accompagnando il film? Sì, non, senza in modo un pochino, diciamo, casuale e caotico, se vogliamo, ma sono in qualche festival, sono a Stato d'Alessandria, vari festival italiani, continuo ad andare, cioè, mi sono chiamato, man mano che bel tempo. Tra qualche giorno andiamo, dopo Pescara, in Marocco, approfittare a fare la prima internazionale, e, insomma, vediamo un attimo come si muoverà il film. Senti, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, ma il sito web del film è cioè, l'associazione che ha creato il film, www.dansacro.org, e lì si può trovare tutto, si possono avere anche i suoi contatti per contattarmi e avere qualsiasi altra informazione riguardo il film. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con il documentario Appennino di Emiliano Dante alla rassegna DocuD, Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara, il prossimo 22 marzo. Emiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Va bene, grazie mille, un abbraccio. Ciao.